Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto, Picchetto. Buongiorno, lei è Gaia e viene da Roveto. E lui è Leonardo e viene da Roma. Siamo qui nella quinta puntata di Radio Picchetto. E al campo nazionale 2K18 dei CNJ, Avi Alfre. E ora vi faremo sentire Tile Collapse. Bentornati e niente, oggi al campo nazionale si è svolto per tutti i sottocampi e Folclorama, nonché è una giornata dove, spiega tu. Praticamente si preparavano piatti tipici delle regioni e metà equipaggio pattuglia restava nel suo sottocampo a preparare e a servire i clienti e l'altra metà andava in giro per i banchetti ad assaggiare i vari piatti. A questa manifestazione, a questo evento, hanno partecipato 12 reparti, che sono 12 reparti presenti nel nostro sottocampo. E è stato molto. A me è piaciuto molto il reparto germano, che ha preparato dei crauti con le salsicce. A te cosa è piaciuto? A me è piaciuto molto il reparto siciliano, che ha preparato i cannoli e polpette molto buone. E pasta al sugo squisita. E Leonardo, il tuo reparto cosa ha preparato? Grisa, il tuo? Il mio ha preparato il tortello di patate e lo speck e il grana. Mazza, buono. Ammazza. Bene, adesso seguirà la prossima canzone dei Zombie Cranberries. Bentornati e ora parliamo un po' di gossip, Gaia. Sì, dai. E tu cosa hai? Hai qualche scoop? Qualcosa di nuovo? Sì, due capi abbracciati prima che le scocchiati. Sul serio? Sì. Anche noi abbiamo una pattugliotta che continua a sentirsi con uno di Roma. Davvero? Sì. È nel tuo reparto? Sì. Oh, fuck. Vabbè, e poi cos'altro? Cosa ci racconti? Qualcosa di piccante? Che... abbiamo fatto molta amicizia con il vostro reparto, il Rovereto. Mm-hmm. E che sono stato stressato alle scautiadi. Si sa. Qualcos'altro di brutto, di piccante, di... Non ce l'ho. Che brucia. Vabbè, noi abbiamo il reparto vicino al nostro, a fianco, che ci ha rovesciato la pasta, praticamente davanti all'abside. E il nostro capo reparto, anche se non sarebbe aspettato a lui, è andato a fare il setone, quello della pattuglia, appunto... giraffe. Ha fatto bene, sono stati proprio cattivi. Sì. Tu cos'altro hai? Hai qualcosa di nuovo? Qualcosa in generale di... Qua alle scautiadi come sei andata? Io alle scautiadi ho umiliato l'altra pattuglia pipistrelle, perché anch'io sono delle pipistrelle, a una gara di lotta e su due sfide, battuti entrambi, un maschio più grande di me tra l'altro. Su quali mod? Allora, coccodrillo e lotta dei galli, che consistono... lotta del coccodrillo è una sorta di quadrupedia dove bisogna buttare giù le mani. E invece la lotta dei galli è... praticamente saltelli girando in tondo, aspettando nell'arco chi butti a terra. A spallate. O spingendogli. Esatto. E bene, e detto ciò, abbiamo finito più o meno con gli scoop di Avalon e... perfetto, adesso iniziamo con la prossima canzone. E... Castle of Glass. Ad... Bentornati, e qui abbiamo Lorenzo e Silvia. E, li intervisteremo. Cosa fate in questo campo che è di esploratori, quindi noi non sappiamo niente? Siamo venuti per farvi d'animazione nel villaggio di Arte e Mestieri. Tenevamo delle botteghe. E abbiamo fatto questo per un paio di giorni, il resto erano attività di sottocampo, quindi tra di noi e un paio di momenti di compagnia. Bello. E quante compagnie siete? Siamo 12 compagnie, Abbiamo fatto tutte e 12 il primo gruppo dal 1 agosto al 6 agosto e già da oggi sono arrivate le 8 che faranno il secondo gruppo. Abbiamo fatto tutte appunto delle botteghe e delle attività di sottocampo con tutte le altre compagnie. E come alloggiate e dove? E noi abbiamo il nostro sottocampo che è il sottocampo Essos e vabbè, siamo in tenda come voi esploratori. E le docce le fate, visto che noi le facciamo una volta ogni morte di papà? Le docce riusciamo a farle una volta al giorno, per fortuna. Sì. Mazza! Meglio così. Grazie e spero di rivedervi presto. Grazie a voi. Grazie. E ora vi faremo sentire American Idiot dei Green Days. Bentornati, qui è Gaia, come prima. E niente, adesso volevamo un po' dire che questo campo sta andando alla grande, è fantastico. Però ovviamente è difficile organizzare perché siamo veramente tantissimi. Però, come in ogni campo, ci sono dei problemi. Delle problematiche, sì. Per esempio, tu cosa diresti? Ad esempio che non c'è tempo, visto che non sono calcolati i momenti di lavare i piatti, metti in ordine la tenga, la cambucia e fare queste cose, poi alla fine non hai mai un momento per sederti e riposarti. È stata l'unica volta oggi che sono potuto stare seduto e infatti siccome ero stanco morto mi sono pure addormentato. Ecco, su questo avrei qualcosa da ridire anch'io, perché per esempio tu dici un momento per rilassarsi, per prendersi una pausa. Io invece dico momenti un po' più seri, come fare dei consigli di pattuglia per parlare di cose molto importanti. Cioè, dopo 4 giorni finalmente siamo riusciti a farne uno. E cioè, in un campo di solito, almeno da noi in Trentino, ne facciamo circa, se non uno al giorno, almeno uno un giorno sì e un giorno no. Poi che altre problematiche per te sono sorte? Noi abbiamo un bag dove c'è il soccocampo, il reparto, il nome e cognome e non trovo per quale motivo non possiamo andare in un altro soccocampo. Noi diciamo, guarda, siamo nel reparto Neverland, abbiamo Cook il necessario per farci riconoscere, se non troviamo la saga, metti che ci perdiamo in quel soccocampo, diciamo, dov'è Avalon? E ritorniamo, quindi sì, non capisco sì, per sì. Quale. Anche perché cioè, i sottocampi sono grandi, quindi non è che cioè, anche ti perdi, chiedi a qualsiasi parte, cioè, ti sanno indicare la strada, ma poi non solo quello, cioè, non mi pare giusto, perché una persona, anche non dico del terzo anno, del quarto anno, che sia grande, cioè, se lo dici ad un capo, bene o male il capo dice sì vabbè ok tu sei sotto la mia responsabilità, se succede qualcosa sono cavoli miei, però cioè gli dice vado in questo sottocampo, mi dici di tornare tra mezz'ora, entro mezz'ora sono qua e non succede niente, perché non penso che casca un asteroide proprio nel momento in cui te ne vai fuori dal sottocampo. Ma infatti sì, poi c'è pure il problema che quando ti fai la goccia le ragazze non possono stare, la devono fare per forza con i pantaloncini e noi non ci possiamo togliere la maglietta. Sì, poi per carità ci sono anche i trasgressori, tipo molto spesso nel mio sottocampo e nel nostro sottocampo abbiamo visto delle ragazze andare in giro tranquillamente, cioè in top, senza problemi. Sì, anche noi vediamo molto spesso ragazzi che si vogliono fare la goccia e che vanno in costumino a bagno. Già direttamente, sì, già svestite e tutto. Io la mattina siccome mi devo lavare me la colgo un attimo la maglietta, però me la rimetto subito e... anche altrimenti. Io ho sentito delle storie anche per questa cosa qua, i lavandini, c'era un capo che proprio stava urlando e a tutti i ragazzi di vestirsi subito e che non si poteva fare le docce ai lavandini e di rimettersi subito a tutti la maglietta. Poi anche i capi, a volte vedo dei capi che si tolgono la maglietta per lavarsi, come gusto che sia. Però sì, è un po' ingiusto. Bene, detto ciò, io sono Gaia dal sottocampo Avalon. Io sono Leonardo dal soccocampo Avalon, spero che vi siate divertiti. Questo è tutto. Arrivederci. Picchetto! Picchetto! Picchetto! Picchetto! Picchetto!